scazzo con la mia bambina. L'inizio è come una pera di adrenalina. L'unico desiderio è che tutto sia come prima. La gente in strada va fuori per la mia musica, perché racconta dei buchi della Repubblica. Odia il sistema mafioso che non mi pubblica. Vende il cantante morboso perché li supplica. Se vado in giro qua mi ferma la volante. Vedo le mani che staccano dal volante. Io non lavoro ma faccio contante. Quindi oggi tocca a me la vendetta del comandante. Il dramma è quando non c'è business che mi chiama, perché la linea della vita è filigrana. E mi hanno detto che la vita è una puttana, te la fa pagare dall'inizio settimana. E mi hanno detto che la vita è una puttana, non ti bacio e ti dai conto per la grana. E mi tocca fare il figlio di puttana, per svoltare meno grana e più grana. E mi hanno detto che la vita è una puttana, non ti bacio e ti dai conto per la grana. E mi tocca fare il figlio di puttana, per svoltare meno grana e più grana. Fottuto lunedì mattina, sono sveglio storto dalla sera prima. Là fuori sta girando solo paraffina, no olandese, no Marocco, colombina. E la mia tipa è su un aereo per l'America. Senza di lei io sono zero e l'aritmetica mi sta sul cazzo lunedì se piove o nevica. E chi mi dice guai prima di agire medita. E se la vita è roba di combinazioni, dammi quella della cassaforte, non fare questioni. In sbattimento per il nuovo emendamento, gli agenti mi hanno chiesto pure il documento. Ma so che le sostanze sono di gradimento a quei signori che siedono in Parlamento. E mi hanno detto che la vita è una puttana, te la fa pagare dall'inizio settimana. E mi hanno detto che la vita è una puttana, non ti bacio e ti dai conto per la grana. E mi tocca fare il figlio di puttana, per svoltare meno grana e più grana. E mi hanno detto che la vita è una puttana, non ti bacio e ti dai conto per la grana. E mi tocca fare il figlio di puttana, per svoltare meno grana e più grana. Il dogo vuole meno stress e più cash, e non averlo sta sul cazzo anche a te. Il dogo vuole meno sbirri e più birre, alza il volume e fai ballare le sgrille. Il dogo vuole meno chiese e più case, in strada ci puntate col mirino laser. Il dogo vuole meno bombe e più pompe, fuori lo stato che si ingrassa e corrompe. E mi hanno detto che la vita è una puttana, non ti bacio e ti dai conto per la grana. E mi tocca fare il figlio.